per Dio, giura quel che vuoi, non mi dire la ragione perché lo fai. Gira sulla linea, vai come me, sono un cane nero e do l'energia del vento. Un po' e non so che cosa fare quando finirà. Quando finirà sul campo, macchie blu, 7-8, gira nel mio cerchio. Sul campo, macchie blu, 7-8, gira nel mio cerchio. D'alcol mi distrugge un po' e non so che cosa fare quando finirà.